Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Un saluto da Maurizio Melis. Reduce, reuse, recycle, recita una canzoncina ambientalista. Riduci, riusa, ricicla. Delle tre regole d'oro da mettere in pratica per evitare di inondare il mondo di spazzatura, siamo quasi sempre concentrati sulla terza. Ridurre invece gli scarti all'origine è qualcosa che si fa meno, ma su cui tutto sommato si sta iniziando a lavorare. Il riuso è invece quasi certamente la meno praticata fra le tre regole auree, forse anche perché richiede più fantasia e un approccio un po' più artigianale, diciamo così. Tuttavia è evidente che trovare nuove applicazioni, quindi una seconda vita, almeno ai materiali tecnicamente più performanti, è chiaramente un'ottima idea. Ebbene, il nostro Marco Imperadori, professore del Politecnico di Milano, docente di tecnologia e innovazione nel settore dell'edilizia, è spesso coinvolto in progetti che mirano proprio a questo, e stasera con lui parliamo di come potrebbero essere riutilizzati gli sci usati. Buonasera Marco. Ciao Maurizio, buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora, intanto perché avete pensato di concentrarvi, di ragionare sugli sci? Allora, la cosa più diretta che mi viene, io sono uno sciatore da quando ho 4 anni, sono nato in Valle Camonica e quindi li conosco bene. Sono partito, ho usato quando ero bambino sci di legno e via via ogni 3-4 anni ho cambiato sci, e fino a usare i materiali più tecnologici e più avanzati, multistrato ad altissima prestazione. E il problema qual è? Che una volta che questi sci vengono smaltellati, ecco che questi sci diventano un rifiuto. E pensate che nelle nostre zone alpine, quindi tutti i vari resort sciistici, sia del noleggio che per quanto riguarda l'uso, diciamo, da privati cittadini, noi produciamo tonnellate di questi materiali, certo, preziosi e non smaltibili. Cioè, il problema è che adesso sono degli accrocchi fatti con tanti materiali diversi incollati, non si possono smontare e riutilizzare i materiali. Al contrario, invece, lo sci, quando lo buttiamo, ha ancora delle, diciamo, caratteristiche meccaniche molto importanti. È così? Tantissime. Pensate che sono fatti con materiali come il titanal, l'alluminio, appunto il titanio, il carbonio, plastiche speciali. Quindi tu hai citato all'inizio recycle, qui si parla di reuse, ma io lo chiamerei un upcycle in questo caso, cioè una sorta di elevare o cambiare la proprietà che avevano questi materiali. Ci facevano scendere e divertire da una montagna, che però una volta che li cambiamo, perché sono scheggiati, perché è cambiato il modello, il tipo di sciata, la sciancratura, ecco che questi sci restano comunque dei materiali preziosissimi. Ecco, per cosa possono essere utilizzati? Voi a cosa avete pensato? Allora, noi ci siamo imbattuti, io facevo parte di una ricerca europea che si chiamava Android, e con l'Università Joseph Fourier di Grenoble abbiamo visto che a Grenoble li hanno studiati, li hanno testati, ne hanno visto le proprietà meccaniche e hanno creato delle vere e proprie strutture che possono servire, poi vedremo, a vari utilizzi. Tenete presente che ad oggi questi elementi prodotti in quanto tonnellate nell'arco alpino vengono smaltiti solo attraverso l'inceneritore, che può essere di un'acciaieria o di una cementeria, quindi certo, in realtà non sono proprio smaltibili. Invece regolarizzati possono diventare delle aste, delle lame standard, con dei semplici bulloni diventano strutture. Perfetto. Qualche situazione più precisa nel quale avete immaginato, state addirittura provando ad utilizzare? Beh, le abbiamo anche realizzate, diciamo. Okay. Innanzitutto una situazione standard che potrebbe trovare un'applicazione è quella, diciamo, del glamping. Il glamping è il glamorous camping, in sostanza. Okay. Ci sono ormai queste situazioni di campeggio un po' evoluto o chic, se volete, in cui in luoghi molto particolari vengono realizzate strutture senza fondazioni che ospitano, diciamo, turisti. Questa è una situazione, diciamo, di gamma più alta. È chiaro che se faccio camping a Bormio e utilizzo per fare le strutture degli sci, ecco che vengono da lì, evidentemente gli ho fatto fare chilometro zero, ho usato una struttura resistente e ottengo uno spazio che poi può essere smantellato. Che è anche abbastanza lussuoso, diciamo, no? Nel senso, non è una tenda da campeggio di quelle da fidanzatini un po' sfigati, vengono delle mezze regge. Ecco. In questo caso sì, e chiaramente poi le pelli sono molto importanti, e quindi gli strati, certo, eccetera. Però pensiamo anche a un utilizzo, io lo chiamo più che low tech, lo chiamerei clever tech, intelligente per l'emergenza. Certo. E quindi realizzare con queste strutture velocemente delle strutture che possono essere quindi anche facilmente stoccabili, impaccate, perché gli sci li impilo uno sopra l'altro, mentre quando li monto appunto, ecco che li apro e creo strutture che possono diventare, diciamo, con una copertura tessile delle tende, però con spazialità ben diverse. Ecco, che strutture? Prova a farcela vedere. Sì, noi abbiamo realizzato con l'Università di Grenoble al Politecnico di Milano un duomo, una struttura geodetica, Mr. Fuller, a campi triangolari di diametro... Tipo pallone da calcio, diciamo, per usare un paragone un po' più bassino. Un'altra applicazione, per esempio, è una struttura simile a una yurta, quindi con gli sci che fanno da struttura. Gli sci non possono essere aggrediti dalle termiti e verranno mandati, questa struttura tessile, poi come involucro, verrà mandata in Africa. Per una missione o qualcosa per del genere. Per una missione, sì, a supporto di una missione. Grazie Marco Imperadori. Grazie a voi. Ci fermiamo qui, appuntamento come sempre a domani alla stessa ora. Buona serata.